Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Quanti ci ascoltano forse l'avranno riconosciuto, è un brano dei Pink Floyd, un brano degli anni 70, è un brano scelto da Gianmaria Gospietro, che non fa il musicista ma fa l'economista d'impresa, i Pink Floyd. Perché Gianmaria Gospietro? Beh, i Pink Floyd mi ricordano un periodo costruttivo della mia vita, un periodo durante il quale facevo essenzialmente il ricercatore. Io ho fatto ricercatore per tutta la vita, ma in quel periodo l'ho fatto praticamente a tempo pieno. Ecco, Gianmaria Gospietro, ordinario di economia dell'impresa presso la Facoltà di Economia della LUISS di Roma, editorialista del Sole 24 Ore, consigliere d'amministrazione di importanti società come Edison, Fiat, Credito Valtellinese, è un grande osservatore della realtà economica. Gli anni 70 erano anche una realtà in cui l'Italia era un po' diversa. Beh, sì, era diversa, aveva già contratto la malattia, perché gli anni del miracolo economico che tutti abbiamo sentito nominare e che io ho avuto la fortuna di vivere sono finiti agli inizi degli anni 70, quando l'Italia, io direi, è andata sul binario sbagliato, perché il miracolo economico era basato sulla capacità di esportazione e sui bassi salari. Grazie a questi due fattori competitivi, l'Italia era diventata in un qualche senso la fabbrica d'Europa. Tutti gli elettrodomestici bianchi d'Europa si costruivano qui. La Fiat contendeva alla Volkswagen la posizione di primo produttore europeo. Si era comperata la Seat in Spagna, la Simca in Francia, voleva comperarsi la Chrysler già allora, ma l'Italia aveva dei primati, aveva posto in commercio il primo calcolatore elettronico europeo, aveva la siderurgia più moderna d'Europa e tanti altri primati. Ma questo modello, basato sui bassi salari e sull'esportazione, era destinato a finire proprio a causa del suo successo. Il successo aveva portato il benessere, aveva fatto scomparire i bassi salari. E allora a quel punto si sarebbe dovuto cambiare, come si diceva allora, modello di sviluppo. Passare da uno sviluppo basato sui bassi salari a uno basato sull'upgrading, si direbbe oggi, no? Del contenuto tecnologico dei prodotti. Sulla qualità. Cioè. Sulla qualità, sulla tecnologia, sì. Sulla ricerca. E lì tutte e due le parti sociali sbagliarono formula. Il sindacato con la rivendicazione del salario come variabile indipendente, cioè dobbiamo stare sempre meglio, ogni giorno meglio del giorno prima, anche se l'azienda va male. E le aziende, invece di investire come fecero i tedeschi nell'approfondimento della tecnologia e del prodotto, cercarono di risparmiare manodopera con un'automazione sempre più rigida. Di lì è l'inizio di tutta una serie di problemi, ci aggiungerei l'errore anche della classe dirigente politica, la quale invece di cercare di aiutare le parti sociali a risolvere il problema, si guadagnò un facile consenso distribuendo redditi non prodotti attraverso l'indebitamento della finanza pubblica. Ecco, sono gli anni in cui cominciò appunto la malattia anche dell'indebitamento, che poi ha creato con gli anni anche il fatto di avere una camicia di forza verso la possibilità di fare delle politiche pubbliche. In fondo, se facciamo un salto dagli anni 70, adesso questa malattia esiste ancora, questa malattia, questa incapacità di capire il modello di sviluppo? Io direi che oggi c'è più consapevolezza di quale sarebbe la strada virtuosa da seguire, anche perché l'esempio tedesco, il successo dell'esempio tedesco ormai nessuno lo può più negare, e quindi abbiamo capito che quello è ciò che si dovrebbe fare, ma nel frattempo il nostro debito pubblico, che negli anni 70 era intorno al 60% del PIL, adesso è intorno al 120%. Quindi ci siamo drammaticamente caricati di un onere che potrebbe diventare molto più pesante se saliranno i tassi di interesse. Nello stesso tempo la globalizzazione, che allora era solo agli esordi ed era un fatto quasi insignificante, oggi fa sì che l'offerta di forza lavoro nel mondo si è moltiplicata per 5, certo. Diciamo così che era mezzo miliardo di abitanti che partecipava alla divisione internazionale del lavoro, oggi sono circa 2,5 miliardi. Ecco, però l'Italia in una certa prospettiva ha anche dei lati che prima potevano essere considerati negativi e poi sono rivelati positivi. Pensiamo alle banche, il fatto di avere un sistema del credito un po' chiuso, un po' provinciale, in fondo ha salvaguardato in parte dalla grande crisi finanziaria globale. Questo è innegabile. Ha ragione Tremonti a dire che le nostre banche sono più solide. Lui si diverte anche a dire che è perché non parlano inglese. Sì. Ma forse qualche merito va dato anche a chi ha guidato l'evoluzione del sistema bancario, cioè la Banca d'Italia, che ha sempre avuto una caratteristica di altissima professionalità. E bisogna dire che qualche esponente della classe politica ha saputo guardare lontano, mi riferisco per esempio a Nino Andreatta. Quindi sì, veramente il sistema finanziario italiano, quello delle banche, è stato un punto di forza del paese e continua ad esserlo. Ecco, è un paese comunque che poi attira capitali stranieri. Vediamo in questo periodo anche una certa battaglia, la battaglia di Parmalat, conquistata o con questo tentativo di acquisizione da parte dei francesi. In fondo, se non fossimo appetibili, non saremmo neanche richiesti. Questo può essere una prova di fiducia verso il sistema Italia? Sì, certamente è una prova di fiducia. Io però le dico che come europeo e come italiano amerei vedere più stranieri che vogliono venire in Italia. Non sono tanti, sono pochi. Se pensiamo che l'Italia è un paese di 60 milioni di abitanti relativamente benestanti, certamente appartenenti alla parte più ricca del mondo, è stupefacente che così pochi investitori vogliono venire in Italia e quasi nessuno vuole venirci per produrre. Vengono più che altro per vendere. Per trovare un mercato. Ecco, ma come giudica questa vicenda a Parmalat? Questa opposizione all'ingresso dei francesi, dopo che i francesi hanno comprato gran parte del settore commerciale italiano, in cui sono presenti in altri settori industriali, c'è sempre stata in fondo un'amicizia. Poi adesso su Parmalat è scattato qualcosa, come mai? Ma forse proprio per il motivo che lei ha citato, cioè la penetrazione, la forte penetrazione francese nel sistema distributivo italiano, soprattutto nella grande distribuzione organizzata, che ci ha fatto toccare con mano qual è l'importanza concreta del concetto di filiera. Filiera vuol dire che se qualcuno possiede gli scaffali sui quali si mettono i prodotti e possiede anche le imprese che producono prodotti che potrebbero andare su quegli scaffali, è abbastanza facile che metta insieme le due cose, sugli scaffali metta soprattutto i prodotti della sua terra d'origine. Certo, e quindi è anche in fondo un'ultima difesa di una italianità, un ultimo ostacolo dopo aver lasciato, appunto, però lasciato anche per ragioni di mercato. Però il latte forse non è un settore strategico, sarebbero più strategiche le comunicazioni, eppure tutte le telecomunicazioni italiane sono in pratica in mano a società straniere. Sì, io credo che sicuramente ci sono dei settori che possono essere definiti più strategici di altri, soprattutto quelli che stanno all'intersezione delle filiere e che quindi hanno delle funzioni di produzione che poi si propagano su diversi canali. Ma io credo che il concetto di territorialità o di italianità nel caso nostro si difenda meglio selezionando le funzioni di impresa. Mi spiego meglio. Quando un'impresa è grande, ha delle funzioni al suo interno di ordine superiore, che sono pregiate, cioè la gente che svolge queste funzioni è pagata meglio, è gente di più elevato livello professionale e quindi riversa all'esterno dell'azienda quelle che noi economisti chiamiamo esternalità positive, cioè commesse di ricerca, insegna elevati contenuti professionali a coloro che lavorano con questi professionisti e insomma tutti i territori ambiscono ad avere presso di sé queste funzioni. Quindi è naturale che un paese desideri avere queste funzioni al suo interno. Ciò che a mio avviso non funziona è cercare di imporre questa situazione, cioè dire questa azienda ci interessa, non può essere comprata. L'unico risultato è che il valore dell'azienda che non può essere comprata scende. Incontri. ancora con i Pink Floyd, questo brano degli anni 70, proseguiamo il nostro dialogo con Gianmaria Grospietro, economista d'impresa, che oggi è qui con noi e abbiamo parlato nella prima parte del problema delle imprese italiane che in parte sono appetite dalle imprese straniere. Abbiamo citato il caso Parmalat, che dovrebbero essere difese dal mercato. Ecco, un mercato in Italia, sì, c'è poco mercato, c'è un mercato protetto, un mercato in cui ci vorrebbero maggiori liberalizzazioni. È questa una delle malattie italiane, professor Grospietro? Sì, il mercato non è un qualunque posto in cui si svolgono degli scambi. O la borsa o la vita è una forma di scambio, ma non è uno scambio di mercato. Così come è uno scambio di mercato, in termini tecnici, un insieme di transazioni nelle quali alcune delle parti non sono in condizioni di simmetria. Per esempio, quando un consumatore è obbligato a comprare da un determinato produttore perché non ci sono alternative, o quando compra qualcosa di cui non può comprendere il reale valore. Allora, se parliamo per un attimo dell'industria finanziaria, ciò che si chiama mercato dei derivati non è un mercato. Perché non c'è trasparenza sul prodotto. Non c'è trasparenza. La gente, e anche magari investitori professionali, certo, credono di comprare qualcosa, in realtà è tutto diverso. E soprattutto il prezzo che si forma è manovrato e non deriva da un libero confronto tra domanda e offerta. Allora, in Italia il mercato è debole perché le masse che si confrontano dal lato della domanda e dell'offerta sono insufficienti, perché talvolta manca la liberalizzazione, perché talvolta mancano gli operatori. Attenzione, perché ci sia un mercato efficace ed efficiente ci vuole concorrenza, e la concorrenza c'è quando ci sono gli operatori validi, e questi operatori vogliono competere tra di loro anziché accordarsi. Ecco, in questo senso c'è anche un po' una responsabilità delle imprese che predicano il mercato, ma poi in fondo, se fosse possibile evitare eccessiva concorrenza, forse è meglio. Questa è un po' il pensiero nascosto degli imprenditori. È molto comprensibile che un imprenditore, quando si alza la mattina, come primo pensiero si chieda: come posso indurre il cliente a comprare di più la mia merce, magari pagandola più cara di quella dei concorrenti, e come posso fare in modo che i concorrenti non possano accedere agli stessi clienti. Questo è ciò che è naturale che pensi qualunque competitore, ma sta al mercato e a coloro che il mercato hanno il compito di proteggere e tutelare, fare in modo che invece questi operatori siano obbligati a competere tra di loro. Per esempio, aumentando le licenze di vendita, certo, a disposizione, se parliamo di distribuzione. Ecco, ci sono dei mercati che sono per loro natura liberi. Uno di questi mercati, per esempio, è quello dell'automobile, è un mercato ormai globale. Ecco, lei consiglia l'amministrazione della Fiat, non le chiedo i segreti strategici della Fiat, però la Fiat è ormai un'azienda globale, un'azienda che sa che deve competere col mercato. Ecco, io credo che lei ha scelto un esempio molto chiarificante. La Fiat ha deciso qualche anno fa di affrontare il mercato mondiale, cioè ha deciso che cercare di sopravvivere sul mercato italiano, magari aiutata dal governo, non era una soluzione di lungo periodo. E quindi Marchionne ha detto: per sopravvivere nel mercato mondiale bisogna produrre 6 milioni di veicoli all'anno, la Fiat ne produceva circa 2, quindi bisogna triplicarsi. È stata intrapresa una via audace che oggi è già a 2/3 del percorso, perché con Chrysler, Fiat con Chrysler, farà circa 4 milioni di veicoli, ma soprattutto li venderà in almeno 3 continenti. Quindi il mercato dell'auto era un mercato che un paio d'anni fa sembrava sull'orlo complessivo del fallimento. Le aziende americane hanno dovuto chiedere dei fondi pubblici per risollevarsi. In soli 2 anni è cambiata la prospettiva. Sono queste i pregi e i difetti, lo splendore del mercato, in fondo, il fatto che possa cambiare lo scenario così rapidamente. Beh, sì, il mercato è capace di questi, chiamiamoli, miracoli. Quando però ci sono degli operatori che hanno il coraggio di guardare in faccia la realtà e di pensare in grande. Guardare in faccia la realtà lo hanno fatto, per esempio, i sindacati della Chrysler, che hanno accettato dei sacrifici e che però oggi hanno in mano una fabbrica che 2 anni fa sembrava definitivamente sepolta. Ma lo stesso coraggio l'hanno avuto gli imprenditori italiani, cioè la Fiat, che ha portato là delle tecnologie nuove e che è riuscita a mettere insieme i volumi di mercato degli americani con la capacità tecnologica che era stata sviluppata a Torino. Quindi l'Italia può avere, non solo nel campo dell'automobile, ancora qualcosa da dire a livello di industria globale? L'Italia ha tanto da dire, anche nel campo delle tecnologie più avanzate. Ci sono da noi delle imprese talvolta di non grandissime dimensioni, tal'altra anche di dimensioni rilevanti come Finmeccanica, come Fiat, che hanno al loro interno tecnologie di punta nel loro settore. Ma ci sono anche imprese piccole che sono avanzatissime. Non bisogna dimenticare che gli italiani messi tutti insieme non fanno neanche l'1% della popolazione mondiale. Quindi quando noi pensiamo al futuro dell'Italia, ai posti di lavoro per i nostri figli, non dobbiamo necessariamente pensare a un sistema economico nel quale si fa tutto in concorrenza col resto del mondo. Anzi, a noi giova scambiare con il resto del mondo e produrre solo alcune cose che noi sappiamo fare meglio degli altri. Ecco, lei ha parlato dei figli, i giovani adesso, i giovani che stanno entrando all'università, che stanno facendo l'università, che hanno un po' di angoscia forse per il lavoro che viene descritto come un lavoro precario, un lavoro difficile da trovare, un lavoro in cui è difficile poi entrare e fare carriera. È veramente così nelle imprese italiane? Per i giovani c'è questa, diciamo, ostilità? No, io non credo, anzi a me sembra che gli imprenditori italiani, soprattutto coloro che guidano le aziende che si sviluppano, sono sempre alla ricerca di giovani. Però bisogna modificare anche qui un modo di vedere. Talvolta si pensa al posto di lavoro come era una volta, cioè garantito per tutta la vita con la medesima mansione. Questo non è pensabile per un paese che voglia mantenersi con un elevato tenore di vita come l'Italia merita di mantenere. Noi siamo, come dicevo, meno dell'1% della popolazione mondiale, possiamo vivere benissimo producendo prodotti di nicchia, di specializzazione, ma questi prodotti cambiano di contenuto tutti gli anni. E quindi bisogna che anche i giovani pensino a un loro sviluppo di carriera che è fatto di cambiamento continuo. Ecco, un cambiamento continuo in cui le esperienze all'estero possono essere positive. Molti giovani italiani, molti laureati italiani vanno all'estero, ma come farli rientrare? Basta qualche incentivo come quelli che ha stabilito il governo? Certamente, gli incentivi sono sempre utili, ma forse in questo caso ci vuole un contesto diverso per fare rientrare un giovane che all'estero vede una realtà dinamica in cui guadagna anche di più. Ma sì, ha ragione, è il contesto che conta, perché vede, l'incentivo sicuramente può essere d'aiuto, però un giovane che deve constatare che il suo rientro è possibile solo sulla base di incentivi viene naturalmente respinto rispetto ad altre società nelle quali non c'è bisogno di incentivi, ci sono opportunità che sono molto meglio degli incentivi. In questo senso l'università ha anche una responsabilità, forse l'università italiana dovrebbe cercare di più di aprirsi al mondo del sistema economico, al mondo delle imprese. Sì, io credo che questo debba essere fatto e credo che questo, anzi ne sono certo perché lo sto vivendo nella mia università, questo sta avvenendo. Le università migliori in Italia si stanno aprendo non solo al mondo delle imprese, ma soprattutto a metri di misura del merito dei docenti e anche degli studenti, che sono gli stessi che si adoperano internazionalmente. Ecco, forse non è giusto parlare di università in senso generale, ci sono alcune università, ci sono altre università, così come è giusto parlare di aziende in senso generale, ci sono alcune aziende che hanno certe strategie, altre che hanno altre strategie, aziende che vanno bene, altre che purtroppo non vanno altrettanto bene. Forse siamo abituati ad avere dei pregiudizi complessivi, a dare dei giudizi un po' generici sulla realtà italiana, che è molto diversificata e in cui magari in questa diversificazione gli aspetti positivi possono anche prevalere rispetto agli aspetti negativi. Sì, è essenziale che ci sia una libertà di movimento, che ci siano delle classifiche, che ci siano dei movimenti in queste classifiche, che quelli che sono migliori possono risultare tali. Se parliamo di università, uno dei danni più gravi è stato fatto con il proliferare delle cosiddette università condominiali, no? Cioè ogni certo. Piccola cittadina voleva avere la sua. Lei sarebbe a favore dell'abolizione del titolo legale, del titolo universitario? Sì, certamente. Del valore legale del titolo di studio? Certamente, sarei a favore dell'abolizione del valore legale, anche se poi immediatamente nel nostro paese verrebbe fuori la domanda conseguente, se non c'è più il valore del titolo legale, che cosa si richiede per diventare impiegato pubblico? Certo. Ci avviamo verso la conclusione. Io vorrei fare un'ultima domanda. Se non avesse fatto l'economista d'impresa, cosa avrebbe voluto fare? L'ingegnere. Io volevo fare l'ingegnere. Costruire i ponti. Mi interessava più che l'ingegneria civile quella meccanica. Cioè costruire le macchine. Costruire le macchine. Beh, forse far costruire le macchine e farle costruire bene è altrettanto importante. In effetti, guardi, io devo dire che essendo un ricercatore, uno dei momenti più divertenti per me della ricerca è sempre stato quello di visitare gli stabilimenti, andare a vedere come fanno a costruire le macchine e con quali macchine costruiscono. Lo fa ancora adesso? Sono cambiati molto gli stabilimenti. Certamente lo faccio ancora adesso, però ho aggiunto qualche altra piccola astuzia da ricercatore. Gliene dico una. Quando visito una fabbrica insieme al capo della fabbrica o l'imprenditore, io faccio sempre in modo di rimanere indietro per vedere come guardano il loro capo, gli operai, quando pensano che siano passati tutti e quando pensano di essere alle spalle di tutti. Questo è rivelatore delle condizioni, delle relazioni industriali che ci sono nello stabilimento. Non le chiedo cosa si scopre in questo caso, anche qui forse lati positivi e qualche lato negativo. Guardi, è stata bellissima l'esperienza nello stabilimento di North Jefferson della Chrysler a Detroit. Lì veramente si è capito che gli americani sono grati al management Fiat per averli riportati a un livello di parità, cosa che con la Daimler non era mai successo. E con questa nota molto positiva per come l'Italia, gli italiani sono riusciti a presentarsi e come sono appunto graditi sull'altro fronte, ringraziamo Gianmaria Grospietro di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringraziamo Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.